America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, atmosfera calda alle Nazioni Unite. Perché? Beh, perché da ieri si è aperto un dibattito piuttosto vivace, e le conclusioni ci saranno oggi, poi ve le darò la settimana prossima, su diete alimentari, rapporto tra diete alimentari e obesità. È uno dei problemi più gravi del nostro tempo. Ci sono alcuni esperti che suggeriscono l'introduzione di regole fisse per limitare quello che la gente mangia, quindi darci delle regole, imporci delle restrizioni, per esempio sugli zuccheri, ma anche su altri prodotti. Altri dicono no, insomma è molto meglio avere delle diete equilibrate, soprattutto fare esercizio. Lo dice per esempio Michelle Obama, che si occupa molto di questo problema che in America è molto molto serio. Che è successo? Che nel frattempo è uscito uno studio, o meglio lo studio uscirà in agosto, ma abbiamo avuto delle anticipazioni, della Stanford University, che ha studiato un periodo molto specifico tra il 1988 e il 2010 e ha tirato delle conclusioni, ma direi che sono chiarissime, sull'importanza di muoversi e di fare esercizio, e anche il corollario, cioè sull'importanza di non limitare certi cibi. In questo studio vi do soltanto alcuni dati. Si dice che la correlazione tra obesità e stile di vita, soprattutto stile di vita sedentario, è molto importante. Se non si fa esercizio le cose peggiorano. Pensate, emerge che l'obesità in America in generale è cresciuta dal 25 al 35% per le donne, dal 20 al 35% tra gli uomini. Ecco, con un aspetto molto interessante, che il numero di calorie consumate ogni giorno in questo periodo non è praticamente cambiato. Cos'è cambiato? Lo stile di vita. Ecco, il tema è molto interessante, molto importante per la nostra economia, ne abbiamo parlato in passato. Ho con me ai microfoni di America 24 non solo un esperto del settore, ma un ex diplomatico, un personaggio, beh, posso dirlo, leggendario, perché ha guidato la missione italiana alle Nazioni Unite in anni importanti, quando l'Italia cercava di contrastare un altro attacco, quello che avrebbe voluto cambiare gli equilibri nel Consiglio di sicurezza, escludendo l'Italia e aggiungendo la Germania. Sto parlando, forse qualcuno di voi l'ha capito, dell'ambasciatore Paolo Fulci, che oggi è presidente della Ferrero Italia e vicepresidente della Ferrero Global International. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ecco, ambasciatore, lei è sempre stato in prima linea, impegnato in prima linea a difendere battaglie per conto dell'Italia. E qua mi sembra che lei sia impegnato a difendere gli interessi di un'importante azienda italiana, e dunque una domanda per lei. Ma insomma, la Ferrero si sente sotto attacco da questa idea di diminuire dal 10 al 5% il contenuto degli zuccheri? E voi siete già stati un po' penalizzati, diciamo, voi lo zucchero lo usate, e come? Nella Nutella, per esempio. Ah, guardi, siamo sotto attacco come sotto attacco l'intera industria del confectionery, come sotto attacco, aveva ben detto prima, la dieta mediterranea, perché vogliono colpire tutti gli alimenti in cui secondo loro si oltrepassano certe soglie in fatto di grassi, di sale e di zucchero. Ora si dà il caso che tra questi elementi hanno messo l'olio d'oliva, hanno messo il parmigiano reggiano, hanno messo il prosciutto di Parma, hanno messo alcuni dei cibi più tipici e tradizionali della nostra cucina. Ecco, scusi ambasciatore, hanno messo, vogliono, chi è? C'è qualcuno dietro? L'Organizzazione Mondiale per la Sanità? Insomma, cosa succede? Chi sono questi signori? Questi signori sono alcuni alti funzionari, non c'è dubbio, che io chiamo piuttosto fondamentalisti, i quali sono estremamente dogmatici in tutto quello che pensano e dicono, e credono di risolvere problemi estremamente complessi con delle regole molto semplici, come quello riducendo lo zucchero dal 25%, come era prima la soglia massima, al 5%. Ora, tutto questo è assurdo, perché vede, per vivere bene i nutrizionisti seri di tutto il mondo hanno sempre detto e continuano a dire che bisogna seguire tre regole fondamentali. Primo, mangiare di tutto in maniera variata. Secondo, mangiare poco, perché spendiamo poche energie non è più come i nostri progenitori che facevano molte fatiche fisiche, noi non ne facciamo più, quindi abbiamo bisogno di molte meno calorie, meno energie, e terzo, fare esercizio fisico. Basta seguire queste tre semplicissime regole per vivere molto meglio. Invece ci si accanisce contro questo o quel elemento. E come lei ha ben detto prima, nella vita è questione di equilibrio. Bisogna non eccedere mai in nulla. Anche se si beve troppa acqua fa male. Ecco, e non possiamo con questo dire che l'acqua è nociva alla salute. Però diciamo che una delle accuse adesso specificatamente, per esempio, si dice che la Nutella è troppo buona e quindi la si mangia, e la si mangia al di là di quello che può essere il normale. Lei giustamente dice no, bisogna fermarsi, tutto fa male se si eccede. E quindi e come lo risolviamo? Come lo risolviamo? Perché è un attacco un po' subdolo, dice no, voi piace troppo, lo mangiano troppo, non si può fare niente, quindi fatelo più cattivo. Lo risolviamo molto semplicemente mangiandolo in maniera equilibrata. Vede, io la mattina, se voglio iniziare bene la mia giornata e spalmare un po' di ottimismo con la Nutella, lo devo fare tenendo però presente che se ne mangio 15 grammi ingerisco già 10 grammi di zucchero, e 10 grammi di zucchero di fronte a un fabbisogno giornaliero di 130 grammi, perché questo dice la scienza, che per vivere occorrono 130 grammi di zucchero al giorno, quindi lo zucchero è vitale per l'esistenza. Quindi devo farmi un calcolo, se la mattina ne ho mangiato 10 grammi, me ne avanzano ancora da ingurgitare nel resto della giornata 120 grammi. Se una mattina voglio rinunciare alla Nutella, vuol dire che potrò mangiare più pasta a mezzogiorno. È tutto questione di nella vita di darsi delle regole e seguirle. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, di Bob Dylan, Chimes of Freedom. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.